parole sono scritte da chi non ha visto più il sole per amore di lei. Io li ho trovate in un campo di fiori sopra una pietra, c'era scritto così: yes I love you. La pioggia bagno.